Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa di temi europei. Questa volta torniamo un po' sulle previsioni 2016, è vero che ormai, insomma, gennaio non che sia quasi finito, però quasi, e però è comunque tempo di previsioni, diciamo che ancora per tutto gennaio si possono fare. Allora vi cito questo articolo di Alternative Economique, apparso, tradotto su voxeurope.eu, che è un sito che non mi stanco mai di citare e ringraziare perché fa questa meritoria operazione di monitoraggio della stampa in un regime poi di comments, cioè basta citarli e loro sono ben contenti che di essere citati e che il loro lavoro venga citato. E allora appunto da Alternative Economique loro hanno tradotto questo articolo di Benjamin Coriat che si intitola 2016 anno decisivo. Tra l'altro lo hanno illustrato con una vignetta in cui le quattro cifre dell'anno 2016 sono in realtà tre, al posto dell'uno c'è un omino molto sottile che viene schiacciato, come dire che appunto è un po' tutto da vedere quello che succederà in Europa e non solo in quest'anno. E Benjamin Coriat, scritto una volta eletto presidente della commissione, Jean-Claude Juncker, che in questi giorni sappiamo che fa notizia anche per questo scontro tra maci, potremmo dire così ironicamente, con il nostro premier Matteo Renzi, quindi Juncker proclamava ovunque con grande consapevolezza che questa è la commissione dell'ultima possibilità, se fallirà il suo mandato, diceva, determinerà la fine dell'Unione Europea. Poi gli eventi sono stati così rapidi e il paesaggio è cambiato così profondamente da provocare un ravvicinamento delle scadenze. Il 2016 è un anno pieno di pericoli, ma anche e soprattutto per questa ragione abbiamo davanti a noi una maggiore opportunità di uscire a testa alta dall'interminabile crisi che attanaglia l'Europa. I problemi sono naturalmente economici, ma anche di una divisione tra nord e sud, lo abbiamo visto in tante questioni, una fra tutte che conosciamo bene, quella sulle nuove regole sul Made in Italy, dove i paesi del nord sono profondamente divisi da quelli del sud. L'Italia è uno di quelli che vorrebbe l'etichettatura obbligatoria, i paesi del nord prevalentemente trasformatori e non produttori non la vogliono, quindi questa divisione. Poi c'è il problema di chi se ne vuole andare, abbiamo scongiurato la Grexit ma ora all'orizzonte c'è la Brexit, e poi tutti i problemi che ci sono a est con le tensioni in Polonia e i comportamenti definiti anticostituzionali del governo di estrema destra, e poi anche naturalmente il grande tema dell'austerità. Ma a un certo punto alla fine dell'articolo c'è questo paragrafo che si intitola Ultima Chance, ve lo leggo: l'occupazione in particolare giovanile, le regioni in difficoltà, la transizione ecologica, per citare solo questi ambiti, sono spaventosamente carenti di risorse. La Banca Europea per gli investimenti non potrebbe seriamente prendere le redini della situazione per ripensare e ridimensionare un piano Juncker per gli investimenti finalmente all'altezza delle necessità. E questo è un altro tema di cui anche a Radio 24 ci siamo occupati tantissimo, soprattutto lo ha fatto Sebastiano Barisoni anche nel suo Focus Economia. Quest'idea di distinguere la spesa per un certo tipo di investimenti e invece la spesa corrente. E torniamo su Vox Europe, perché il giornalista polacco Ramin Dadaszow si concentra invece su un'altra questione che magari noi a volte pensiamo riguardi solo alcuni paesi, in realtà riguarda tutti, che è quella della corruzione. È vero, ci riguarda tutti all'interno dell'Unione Europea, ma naturalmente in maniera diversa. E allora è uscita una nuova graduatoria sull'onestà pubblica negli Stati membri dell'Unione Europea. Al primo posto tra gli onesti c'è la Finlandia, la Bulgaria all'ultimo, ma l'Italia non se la cava tanto bene. E allora si legge appunto in questo articolo: giovedì 21 gennaio la presidenza olandese dell'Unione Europea ha pubblicato una nuova graduatoria dell'integrità pubblica dei 28 Stati membri. La graduatoria rappresenta la prima misurazione oggettiva dell'integrità nell'Unione Europea e fa parte di un rapporto ufficiale sulla fiducia e l'onestà commissionato da un gruppo di istituti di ricerca associati al progetto Anticorp, guidato da una professoressa di un istituto di Berlino. Ecco, in questa graduatoria, come vi dicevo, l'Italia non è messa benissimo perché è quart'ultima, però è migliorata negli anni, cioè eravamo anche peggio. Questo tema naturalmente della corruzione si lega in qualche modo sia alle regole dell'Unione Europea sia in generale al progresso economico, perché la corruzione è sempre un fatto negativo, l'economia nera e quindi tutta l'economia nascosta è sempre un fatto negativo per il progredire degli stati, anche non soltanto dal punto di vista etico, che è comunque una cosa positiva, ma da quello economico. A proposito di Italia e dei suoi difetti, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, con la penna di Tobias Spiller, che non è mai gentile con noi, potremmo dire così, ha pubblicato un articolo intitolato «Le leggende sulla Germania non curano le banche italiane». E il titolo è nel, appunto, l'attacco è «Le leggende sulla Germania non si curano i bilanci delle banche italiane e il coraggio di una medicina efficace non ce l'ha nessuno». È un po' la sintesi di questo intervento, perché voi sapete che spesso quando il governo Renzi è stato criticato per l'intervento sulle quattro banche famigerate o comunque in generale sull'atteggiamento verso le banche, spesso si è risposto: la Germania non deve dirci niente, non ha voce in capitolo, perché anche in Germania sono stati fatti degli interventi pubblici, dei salvataggi pubblici, ma proprio perché era la Germania nessuno ha detto niente. Ecco, scrive Tobias Piller, secondo l'analisi l'Italia è molto lontana da uno sguardo critico sulla difficile situazione delle banche. Se ne è parlato tanto anche a Radio 24 in questi giorni, si continuerà a parlarne. Sicuramente non è il momento di cercare scuse, ma di risolvere una volta per tutte, se possibile, i problemi delle piccole, delle medie e delle grandi banche italiane. Cambiamo argomento, ma restiamo in Germania. La Süddeutsche Zeitung ha pubblicato un articolo in cui si parla della questione di Schengen. Sapete che nei giorni scorsi si è detto Schengen sospeso in alcuni paesi, in particolare dall'Austria, che era uno dei paesi da cui forse non ce lo si aspettava. Che cos'è Schengen? È il trattato che regola la libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. Come sappiamo tutti, quando ci spostiamo all'interno dell'Unione Europea non è più necessario da tanti anni far vedere i documenti. Con l'emergenza immigrazione l'Austria, per esempio, ha appunto reintrodotto questa regola e scrive la Süddeutsche Zeitung in un'intervista al commissario europeo dei rifugiati che il ripristino dei controlli da parte di Austria e prima da parte di Slovenia e Croazia non aiuta e anzi potrebbe aumentare le tensioni. Bisogna trovare un'altra soluzione a questo problema, però anche qui è vero, però sempre questo dire che le soluzioni sono altre. Purtroppo i controlli sono molto difficili da fare, le frontiere in Europa sono tantissime. Sarà anche vero che ripristinare Schengen non è una soluzione, però in qualche modo sicuramente bisogna trovare il modo di monitorare, di controllare i documenti a chi ce li ha, di chi vuole entrare nell'Unione Europea. Per quanto riguarda invece le reazioni a questo scontro a cui ho accennato tra il nostro Premier Matteo Renzi e in particolare adesso il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, ci sono stati molti giornali che hanno cercato di raccogliere tanti pareri, e allora per esempio John Peat, che è caporedattore per gli affari europei dell'Economist, ha dichiarato a Repubblica che Renzi somiglia di più alla Francia e persino alla Gran Bretagna. L'Italia di Renzi. In Italia cresce l'euroscetticismo, ma visto dalla manica, dalla sponda della manica, il governo appare comunque più a favore dell'integrazione europea di tanti altri paesi. Si è sempre detto, lo ha ripetuto tante volte, probabilmente ha ragione anche il Premier Renzi, che gli italiani sono europeisti nonostante alcune posizioni anti-euro di alcuni partiti, citiamo la Lega naturalmente, ma anche Fratelli d'Italia, e che l'Italia, lo ricordiamo, è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, e però sicuramente, proprio come sta succedendo in Francia e soprattutto in Gran Bretagna, cresce l'irritazione verso alcune rigidità di Berlino, irritazione che Matteo Renzi a tratti è molto bravo a cogliere. A proposito di Francia, segnalo che è forse il paese che ha dato più spazio alla scomparsa di Ettore Scola, il grande regista morto a 84 anni pochi giorni fa, e lo ha definito appunto un grandissimo maestro. Lo hanno fatto Le Monde, Le Figaro, Liberation, ma in realtà il regista è stato ricordato in tutto il mondo, spesso con articoli in prima pagina. Passiamo al Wall Street Journal, perché secondo il Wall Street Journal l'Italia ha un ruolo molto importante nel 2016, e scrive il Wall Street Journal: forse la più importante domanda che pende sull'economia europea per il 2016 è se la ripresa dell'Italia è autentica. E inizia proprio così questo articolo, che si intitola La ripresa dell'Italia, chiave per le fortune dell'Europa. Secondo il Wall Street Journal, Renzi ha fatto più progressi nell'affrontare i problemi strutturali negli ultimi 2 anni che i suoi predecessori negli ultimi 20. Le sue riforme stanno già avendo un certo impatto. Il giornale americano cita dati secondo i quali si prevede che l'Italia crescerà, lo abbiamo sentito anche appunto nelle previsioni ufficiali del governo, dell'1,6%, la disoccupazione è scesa dell'11,3%. La fiducia dei consumatori ha finalmente ricominciato a crescere ed è la più alta da oltre 10 anni. Si tratta di un rimbalzo ciclico dovuto soprattutto anche a condizioni esterne come il quantitative easing della Banca Centrale Europea, il prezzo del petrolio che è sceso così tanto ed essendo noi importatori di energia siamo tra i paesi che ne traggono più vantaggio, oppure c'è qualche cosa di veramente più strutturale? Ecco, da questo appunto, secondo il Wall Street Journal, dipenderà davvero anche il futuro dell'intera Europa, perché l'Italia era, come ci aveva definito anche l'Economist qualche mese fa, il grande malato dell'Europa. Si vedeva questo stivale che si reggeva solo grazie a un bastone, ricordo bene quella copertina. A proposito di grandi malati dell'Europa, vi segnalo un ultimo articolo, questa volta lo prendo dall'edizione internazionale, che cita Katimerini, un quotidiano greco, che fa un po' il punto sulla riforma più importante per la Grecia, che è quella delle pensioni, vi suona familiare, anche noi siamo alle prese con questo tema. È evidentemente il tema che insieme alla sanità pesa di più sui conti pubblici dei paesi, in questo caso è la Grecia. Il premier sta cercando di farlo passare, questa riforma delle pensioni, e da questo dipenderà molto anche il futuro dei prestiti che la Grecia chiederà ancora sicuramente all'Unione Europea e forse, come abbiamo visto la settimana scorsa, al Fondo Monetario Internazionale. Era l'ultima segnalazione per oggi. Vi ricordo comunque che sul sito di radio24.it trovate i podcast di queste trasmissioni. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.